America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. Tripoli bel suol d'amore, canzone del 1911 che accompagnò l'avanzata italiana in Libia, che strappò questo territorio all'impero ottomano. Ecco, al di là della cronaca stretta che abbiamo seguito anche negli ultimi giorni, vorrei in questa puntata aprire una piccola parentesi, perché la Libia in realtà non ha mai avuto una sua autonomia diretta e ha avuto un passaggio come territorio per secoli sotto l'impero ottomano. Prima poi fu conquistata dagli arabi e prima ancora sotto l'impero romano. Quindi quando gli italiani arrivarono, cercarono di prendere un territorio dall'impero ottomano che era in fase di totale declino, poi sparì con la prima guerra mondiale. Dunque gli italiani restarono a Tripoli e in Libia, in Cirenaica, a Bengasi, per 32 anni, dal 1911 al 1943, quando poi con la guerra di Libia arrivarono invece gli inglesi e gli americani. L'inno dei Marines, appunto, arrivarono, vi dissi, gli americani e i britannici. La Libia restò poi protettorato prima sotto i britannici e poi sotto l'egida delle Nazioni Unite fino al 1951, quando poi ottenne l'indipendenza. Questo per dire che cosa? Che ci fu un grosso cuscinetto tra il governo italiano, che investì tra l'altro una gran quantità di denaro perché costruì città ex novo, sviluppò piantagioni, colonie e così via, e quello che è stato poi il passaggio di Gheddafi. E siccome io sono cresciuto a Tripoli, quindi vi racconto queste cose con una certa partecipazione, vorrei anche un po' raccontarvi di quella che era l'atmosfera nel momento in cui arrivò Gheddafi nel 69 in questa città, che era una città veramente cosmopolita, una città mediterranea, una città italiana mediterranea, con il lungomare, con le palme sul lungomare, col porto, il porticciolo, e c'erano i club, c'era il beach club, c'era l'underwater, c'era il Lido, c'erano le scuole dei Fratelli Cristiani, il liceo statale Dante Alighieri che era in via Lazio, la scuola elementare Regina Elena che era stata fondata, pensate, prima ancora della conquista della Libia del 1911 da un personaggio che restò leggendario, e cioè da Giannetto Paggi, che era un maestro che appunto arrivò prima del 1911 per cominciare a portare un po' di istruzione. Poi c'era il Circolo Italia, c'erano i caffè, c'era il Caffè Loro, l'Acropol che era su Piazza Cattedrale. La città era costruita ed è tuttora costruita come una normalissima città italiana, anzi con una città italiana devo dire di stampo architettonico fascista, con un centro, le vie che si diramano dal centro, il design architettonico dei palazzi è molto modernista. Erano i tempi del re buono, di Idrissa al-Senussi, era un monarca costituzionale, c'era un primo ministro, c'era un parlamento e a tutti gli effetti Tripoli era una città italiana. C'era però anche come residuo poi di quel passaggio di americani e britannici anche una base americana. Questa base americana, Willis Field, era la più importante base aerea degli Stati Uniti nel Mediterraneo. Ecco, in questo contesto c'è stato il colpo di Stato di Gheddafi. Idris era molto vecchio, stava per arrivare un principe ereditario, Gheddafi aveva 27 anni e quindi con un gruppo di amici suoi prese il potere, devo dire, senza colpo ferire. Ecco, in realtà la tranquillità vera durò poi fino al 67, perché con la guerra dei sei giorni ci furono già delle dimostrazioni quando ci fu la guerra contro Israele e ci furono i primi attacchi contro gli italiani di religione ebraica, ci fu un primo esodo, gli ebrei italiani scapparono dalla Libia in alcune migliaia e poi subito dopo ci fu l'esodo voluto da Gheddafi. Abbiamo con noi in linea quei microfoni di America 24 Giovanna Ortu, presidente dell'associazione Italiani Rimpatriati rimpatriati dalla Libia, e dunque con lei affrontiamo un capitolo di cui si discute poco. Si parla molto di Libia, ma si parla poco di quello che è stato il destino di questi italiani che hanno perso tutto. 5 miliardi di euro pagati dal governo italiano come risarcimento per i danni coloniali prodotti dagli italiani in Libia. Domanda: è una cosa logica? Beh, i 5 miliardi secondo me rappresentano una specie di bakshish sulla promessa che Gheddafi darà lavoro alle nostre imprese che costruiranno l'autostrada e a tutte le grandi realtà che già lavorano molto con Tripoli, eccetera. Non è che mi scandalizzo di questo, mi scandalizzo che il nostro governo, dopo aver assistito impassibile alla violazione del trattato bilaterale che ci proteggeva nel 1950, il trattato del 1956, che Gheddafi ha violato nel 70 privandoci di ogni bene, tutti i governi che si sono succeduti, anziché proteggere 20.000 cittadini italiani, perché avrebbero potuto ricorrere pure a una, c'era una clausola arbitrale, all'arbitrato internazionale, ci sono dati da fare poi per arrivare alla conclusione di un altro trattato nel quale noi non eravamo neanche nominati. Io qui voglio ringraziare tutto il Parlamento, dalla destra alla sinistra, che in occasione della legge di ratifica si sono ribellati e hanno minacciato di votare contro qualora non venisse inserita nella legge di ratifica una clausola per concedere a noi un articolo, per concedere a noi un modesto indennizzo. Ma l'indennizzo è stato talmente modesto per cui ciascuno di noi, a fronte di un appartamento perso nel 70, oggi riceve tanto da comprarsi un confortevole divano a tre posti. C'è un'idea, una speranza, una possibilità che con un nuovo governo, una volta caduto il regime di Gheddafi, possa essere più aperto? È chiaro che non sappiamo nulla, ma c'è un po' questa speranza, questa possibilità che si possa rientrare, che magari qualche risarcimento possa venire direttamente da Tripoli? Francamente questo vorrei sperarlo, ritengo che comunque la popolazione libica ci ha sempre accolto, anche in quelle pochissime occasioni che abbiamo avuto, ci ha sempre accolto molto bene, e questa mi auguro che sia più che una speranza, quasi una certezza. Ecco, lei è rientrata dunque in Libia dopo il 70? Sì, io sono rientrata e sono stata accolta benissimo. La cosa più bella che ricordo è che quando ho incontrato per caso uno che era un nostro ex fattore, mi ha aperto la sua casa, mi ha portato a festeggiare con tutta la sua famiglia e abbiamo instaurato quei rapporti interrotti per 40 anni. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguiteci su Twitter 24 America, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno. Gli eccentrici Red Hot Chili Peppers stanno per registrare il loro decimo album. Beh, un album che poi uscirà alla fine dell'anno. Però c'è una curiosità, c'è un titolo lunghissimo di una canzone in questo album. Ve lo dico: Dr. Johnny Skin's Disproportionately Rambunctious Polar Express Machine Head. Ascoltiamo un loro vecchio successo, Californication. It's understood that Hollywood sells Californication. Da New York è tutto, Mario Pratero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going! America 24.